Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nella bella città di San Gimignano, nel cuore della Toscana, per ribadire un concetto: che in Italia si potrebbero anche non fare mai mostre, perché siamo talmente ricchi di tesori stabili che andarli a riscoprire è veramente un'emozione straordinaria. Per esempio, oggi vi voglio portare nella chiesa di Sant'Agostino di San Gimignano, dove si trova nell'abside un ciclo spettacolare di affreschi. Sono le storie di Sant'Agostino, il fondatore dell'ordine agostiniano, e la chiesa è dedicata a lui, che vennero realizzate dal pittore fiorentino Benozzo Gozzoli intorno al 1465. Questo ciclo venne pagato da un abate che aveva un sacco di soldi e che si dava anche un po' di arie, perché aveva studiato a Parigi, e questo signore si faceva chiamare l'abate Parisinus. Infatti ci sono le iscrizioni ovunque che segnalano il fatto che lui ha pagato questi affreschi, e questi affreschi sono davvero singolari, perché Benozzo Gozzoli, che era stato un allievo di Beato Angelico, realizza per la prima volta e unica volta la grande storia di Agostino nelle pareti. I pittori tradizionalmente lavoravano dall'alto verso il basso, scendevano, i punteggi venivano calati, e così ha fatto anche Benozzo Gozzoli. Ma la cosa singolare è che gli affreschi, per una rara volta, si devono leggere dalla base verso l'alto, cioè la vita del santo viene raccontata partendo dai registri più in basso e salendo verso, naturalmente, la sua ascesa al cielo come santo. E gli affreschi sono molto divertenti, perché raccontano le storie di questo giovane quando comincia ad andare a scuola nella natale Tegaste, poi diventa un oratore famoso a Roma e poi diventa un santo, perché incontra Sant'Ambrogio a Milano, fino a fare una carriera straordinaria di vescovo, e alla fine, alla culmine della cappella, entra nel paradiso dove lo attendono i quattro evangelisti. Quindi una meravigliosa storia raccontata in modo mirabile da Benozzo Gozzoli.